Vabbè. Dai, questo le orecchie pregi, no? Pregio. Dai. Tipo, non so. No, diglielo tu. Bella di te. La cosa bella di me. Sì. Sono un ragazzo simpatico, scherzoso, accollativo. Accollativo. In tutti i sensi. Accollativo. We'll be right back.